fossi io, viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. So che l'argomento non c'entra nulla con questa giornata di euforia obamica, ma oggi vorrei parlare dei segni distintivi dell'appartenenza ideologica. Da cosa si riconosce se una persona sia di destra o di sinistra? Voi direte che discorso vecchio, pieno di luoghi comuni. Sono qualche ora che su Facebook stanno dibattendo centinaia di messaggi e veramente abbiamo toccato il fondo di tutto ciò che è stato già detto, già immaginato, già supposto su queste categorie che sembravano perlomeno negli ultimi decenni rappresentate soprattutto da segni tangibili e da rappresentazioni esteriori. Ma io invece sono più che convinto che questa sia la domanda del giorno. Io sono stato fra i pochissimi italiani reietti e privi di senso di appartenenza al momento fatidico della loro epoca che non hanno assistito all'incoronazione di Obama. Ma ho visto alcuni meravigliosi particolari nei giornali. Il guanto verdolino della moglie, la figlia multistrato arancione sul rialzo. Beh, da questi segni esteriori si capisce se la famiglia del presidente degli Stati Uniti sia di destra o di sinistra. No, è impossibile capirlo. È impossibile definirlo. Non esistono rappresentazioni esteriori dell'appartenenza interiore. Noi veniamo da una generazione invece in cui era molto importante, era fondamentale il come ci si vestiva, i locali che si frequentavano, le letture che si facevano, il proprio lessico familiare che si riverberava nelle piazze, nei luoghi d'incontro con gli amici, la maniera attraverso cui ci si relazionava con gli altri, ma soprattutto gli abiti, soprattutto il taglio dei capelli, soprattutto le scarpe. Voi direte, sono aspetti minimali, esteriori, superficiali, cosa ha a che fare con il grande problema della caduta di tutte le ideologie? Beh, cominciamo dall'aspetto esteriore, cominciamo a definire le categorie estetiche dell'appartenenza nel momento in cui viviamo. Concentramento. E perché gli amici vostri comunisti non ce l'avevano i campi di concentramento? Intanto voi comunisti avete perso le lezioni, imparate la lezione della democrazia e state sotto, zitti e buoni. Scusa, che ha detto cosa lì, Mortizia? Che sei una povera ignorante, sciacquetta! Però almeno io mi lavo! Ma vaffanculo! Sento usare termini come comunisti, nazisti, fascisti. Secondo me è un po' a sproposito. Che significano oggi queste parole? I comunisti sono quelli più ricchi e laureati. Efficienti. Invece i fascisti sono quelli più poveri e ignoranti. No, scusa, poveri e ignoranti ci sarà te, eppure c'è. No, a me mi pare che quelli di destra, al limite pure io ci sarei. Sono quelli più... odio gente normale così che lavora. Invece i comunisti sono tutti tipo direttori, dottori, registi. Tutta gente che hanno bisogno di lavorare. Questo diciamo che è l'ultimo cascame epocale delle categorie che cercheremo di definire questa mattina, che appartengono più che altro a ricordi, a nostalgie, a una visione dell'esistenza che ha formato una classe di 45 anni, 50 anni circa, forse anche un po' oltre se vogliamo andare a ripescare i primi esiti dello spirito sessantottino, che in Italia devo dire non è che abbia poi lasciato tracce molto evidenti, se non nella classe dirigente, nei direttori dei giornali, in coloro che oggi stanno in tutt'altra collocazione. Ma io insisto, questo è il film di Virzì del 2003, Caterina va in città, quindi sono echi piuttosto lontani. Si parla ancora di appartenenza politica legata a segni esteriori, quando ormai l'appartenenza politica non significa più una conquista quotidiana del proprio spazio vitale nelle piazze, nelle scuole, per le strade. È un po' rimasta come una sorta di moda nostalgica che apparteneva più ai genitori di questi ragazzi che a loro stessi. Tu che sei nuova, Caterina, no? Sì. Mi piacerebbe sentire il parere di una persona che viene da una realtà così diversa da quella romana. Scusi professore, la discussione mi interessa molto, ma veramente non mi sento molto preparata sull'argomento. A Montalto tra ragazzi di queste cose proprio non se ne parlava. Ma ci stanno le teste rasate? I miei cuginetti quando hanno preso il ridocchio alla scuola materna. Non mi dire che non ci sta neanche un centro sociale. C'è il centro sociale di Ombolone. Ci sta un gruppo di pensionati simpaticissimi che organizzano tornei a scopone, campagna tra santuario. Però mi sa che... Beh, infatti non è la stessa cosa che dicevate voi. Un punto di vista molto interessante. Grazie, Caterina. Se non altro hai interrotto questa insopportabile sequenza di luoghi comuni. Insopportabile sequenza di luoghi comuni, dice l'insegnante a Caterina, che viene da Montalto di Castro, quindi è fuori da queste categorie che Virzì vede soprattutto come categorie urbane, metropolitane, non trapelate nella periferia, nella provincia. Ma perché? Perché non sono più i tempi in cui anche la provincia era comunque informata a queste categorie estetiche. Oggi si discute magari sulle mutande di Dolce Gabbana o su quel tipo, particolare tipo di occhiali, ma sono appartenenze di altro tipo, ad altre tribù. Non esiste una così drastica e manichea divisione dell'esistenza in coloro che sono di destra e coloro che sono di sinistra. Me lo sintetizza in questo momento Vittorio su Facebook. Dice: la differenza, secondo me, è se tu gli chiedi come stai, quello di sinistra ti risponde subito con tutti i libri che ha letto, i film che ha visto, la sua musica che è migliore della tua, e tu gli dici sì, ma ti ho chiesto come stai. Quello di destra invece risponde bene. E tu? Ti piace Mortadella? Sì. Poi lo cambio. Ok. Ma tu sei Zecco o Pariola? Come, scusa, non ho capito. Perché alternativa non mi sembri, cotta nemmeno. Forse sei normale. Non saprei. Ma sei per Margherita o per Daniela? Vabbè, ho capito, fa la misteriosa. Cavoli tua, ciao. 800 24 00 24. Iniziamo adesso ad aprire i nostri telefoni, che naturalmente erano già aperti, per cominciare a definire assieme a voi come oggi riuscite a identificare, ad annusare, a capire, a definire se una persona sia di destra o di sinistra. È chiaro che oggi è anche molto difficile poi definire cosa significhi un'appartenenza ideologica a queste due a questi due punti di vista, a queste due categorie dell'orientamento politico, che radicalizzano, semplificano e soprattutto polarizzano fortemente l'attenzione nei confronti dell'esistenza. Oggi l'attenzione non è così tenacemente polarizzata, è piuttosto sfumata. Oggi è il momento dei compromessi, delle indefinite possibilità di collocarsi, delle introspezioni che trasudano sia da un punto di vista che dall'altro. È un po' difficile definirlo, ma noi invece vogliamo definirlo dall'aspetto esteriore. Cominciamo dalla definizione dell'abito. Io questa mattina potrei essere vestito da giovane di destra perché ho un vestituccio nero con cravatta e camicia bianca, ma allo stesso tempo è la divisa di Gianni Riotta, che è il direttore di sinistra del TG1 e quello che ha aperto la campagna elettorale con Veltroni, quindi dal vestito non si capisce. Chiara Gamberale, che è qui in studio con me, non so se sia vestita da ragazza di destra o di sinistra, ha le spalle ignude, però non ha trucco, quindi è mezza di destra e mezza di sinistra. Buongiorno Carla. Chiara. Carla, buongiorno. Chiara Gamberale. Buongiorno Gianluca, ciao a tutti. Sì, presenza conosciuta e nota in questo studio. È qui perché oggi inaugura l'uscita su Piazza del suo nuovo libro, Una passione sinistra, di Tore Bompiani, che parla proprio di un rapporto, di una osmosi illecita fra persone di destra e persone di sinistra. Poi ho Filippo Rossi. Filippo, eccoci. Rossi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Filippo, tu sei di destra o di sinistra? Ale Clark, Scamosciate, che era la scarpa del giovane di sinistra impegnato da metà degli anni 60 fino a metà degli anni 80, ha una barbetta incolta, però sei direttore di FF Web Magazine, che è il magazine della fondazione Fare Futuro, la fondazione di Fini, quindi in teoria sei un ragazzo di destra. In teoria, molto in teoria. Sì, però c'è la faccia da ragazzo di sinistra. Però non sono state notati i miei stivali di gomma. Sì, e quelli sono di destra. Di destra? Sì, sono fighetti su. Sì, ah, sì, ma sì. Certo. Gli stivali, e questo è il problema di quelli di sinistra che pensano di essere di sinistra, ma in realtà si vestono da destra. Quelli, no, quelli. pregherei di mantenere un attimo la calma. Gli stivali di Chiara Gamberale sono degli stivaletti orrendi di gomma antipioggia, però con dei fiorellini che danno qualcosa di carino, di antico. Potrebbero essere di una ragazza di destra, di buona famiglia, più che ben educata. Reazionaria. Sì, reazionaria, però legata ancora a Holly Hobby, a quelle belle lenzuoline ricamate. Ma forse che piove, uno si vuole riparare, no, i piedi, no? Se piove si prende l'ombrello. L'ombrello, quella è nostalgia, non si andiamo nostalgia. Appunto, Filippo. Siamo seri, tu sei qua soprattutto perché tu hai scritto uno dei compendi forse più completi che riassumono quelli che sono i punti di vista, gli immaginari, le idee di forza, anche fuori dai canoni tutti conosciuti, delle persone di destra. Era Fascisti Immaginari, un libro di qualche anno fa, edito dalla Vallecchi, in cui te assieme a Luciano Lanna mettevi in fila tutti quelli che erano stati miti generazionali della destra italiana, mettendoci dentro anche Alan Ford, Diabolik, le cose più impensate. Sì. Quindi l'universo delle definizioni dei simboli esteriori è molto più variegato rispetto ai luoghi comuni. È sostanzialmente più variegato, l'immaginario di ognuno di noi è intrecciato con l'immaginario di tutti gli altri, e quindi dal punto di vista dell'immaginario possono esistere categorie di destra e di sinistra. Noi, io e Luciano, nel libro Fascisti Immaginari, che poi non è un caso è uscito lo stesso anno di Caterina va in città, quindi erano quegli anni in cui si discutevano di queste cose, ma sembra quasi quegli anni ci fosse desiderio di canonizzare, definire alcune categorie che stavano scomparendo. Poi se ne è parlato sempre meno. C'era il bisogno di descriverle per uscirne. Non è un caso che noi nel libro mettiamo De André, parliamo di Guccini, parliamo di un immaginario che era sentito di sinistra, ma che in realtà è appartenuto anche alla destra. Quindi questo senso di canoni non definiti rispetto ai modelli estetici è sempre esistito. Noi eravamo legati, ragazzo di destra, occhiali scuri, giubbotto di pelle, scarpe luci da punta o stivaletti paramilitari, ragazzo di sinistra, capelli lunghi, abito trasandato, pantaloni stazzonati, barba incolta e via dicendo. Sono categorie un po' vecchie, però hanno definito comunque la classe politica emergente italiana negli ultimi 30 anni. Lo definivano, ma non erano la realtà, perché ci stanno un paio di foto che sono divertenti. Ci sta una foto di un comizio di Ignazio La Russa negli anni 70, lui capelli lunghi, che se non sapessimo chi fosse sarebbe assolutamente un compagno. C'è un'altra foto del presidente Sarkozy, gollista, in una manifestazione sempre degli anni 70, anche lui capelli fino al collo. Nell'estetica le differenze non sono mai state così nette come i giornali l'hanno descritte. Io sono stato molto felice quando le Clark sono ritornate di moda. Un altro tabù insormontabile negli anni della definizione potente, forte, negli anni in cui entrare in un quartiere con i capelli corti significava essere preso a sassate, entrare in un altro bar con i capelli lunghi significava essere preso a sprangate. Questa era la realtà che è andata avanti per gli anni 70 fino a metà degli anni 80. Oggi è molto poco definibile ancora questo tipo di rischio, ce ne sono altre legate alle appartenenze. Era quello delle cosiddetti possibili incroci sentimentali, ma non soltanto sentimentali, anche fisici, anche sessuali. Una ragazza di sinistra non la mollava mai a uno di destra, manco a pagamento, manco sotto violenza, manco per sfida, perlomeno palesemente. Il ragazzo di destra sarebbe stato ben contento probabilmente di avere una ragazza di sinistra, perché rappresentava uno sconfinamento nel territorio nemico, ma era per lui molto difficile, se non impossibile. Chiara Gamberale, nel suo ultimo romanzo Una passione sinistra, porta alla luce in realtà questo grande rimosso. La storia di due coppie, una coppia di destra e una coppia di sinistra, in cui, per farla breve, si può dire subito quello che succede. È certo, è da lì che parte la vicenda. Quella di sinistra la dà selvaggiamente a quello di destra. No, sì, si ritrova. Prova lei a... No, vabbè, non mi far essere volgare, non mi ti far seguire. Sì, succede così. Io seguo queste due coppie dalla caduta del muro di Berlino fino a oggi, proprio fino all'ultima vittoria di Berlusconi, perché volevo proprio un po' riaggiornare quelli che erano stati gli schemi che secondo me ha raccontato per distruggere benissimo Virzì, sia in Caterina va in città e anche in Ferie d'agosto, no? Ve lo ricordate? Come no? E quindi c'è questa coppia in cui la lei della coppia, ovviamente quelli di sinistra, non sono sposati, perché non credono nel matrimonio, però sono una coppia, insomma, unita da grandi ideali. Quelli di destra sono sposati, lui è figlio di un errore, fra l'altro giudiziario, di Mani Pulite, e la coppia di sinistra vende l'appartamento a quella di destra. Anche questo secondo me oggi è significativo, che tutto sommato non esistono più i quartieri, no? Di destra, certo, o di sinistra. Alla fine infatti sarà sfondo questa casa che si sfronda dai mobili, diciamo, di sinistra per riempirsi di quelli di destra, di questa liaison extra coniugale. C'è un momento intermedio in cui la casa è vuota che si riempie. Quello ti piace molto. Sì, mi piace molto. Che è il momento della consumazione del terribile atto che sembra sconvolgere le categorie cosmiche. Ma io volevo un po' sottolineare, è anche una metafora politica, infatti i due mentre fanno l'amore parafrasano le campagne elettorali di Veltroni e Berlusconi nelle ultime elezioni, perché lei si ritrova in questi salotti, lei il marito l'ha voluto. Cioè trovano eccitamento nel sentire le voci dei loro rispettivi leader. No, forse dentro la loro tesi, no, quello di lui non tanto, l'avvocato Giulio Faleni mica tanto, lei però a un certo punto si ritrova come annoiata in questi salotti in cui si si chiacchiera e vuole essere brutalmente posseduta da quest'uomo a cui invece non interessa niente sapere lei che cosa pensa, come si questo sente. Questo è sempre stato il rimosso dell'immaginario del ragazzo di destra, pensare quelle di sinistra in fondo si annoiavano con i loro compagni rispettivi e reciproci che gli regalavano, che gli parlavano di questi libri, che ne so, del Saggiatore, di Feltrinelli, noiosissimi. Sì, anche se io sono convinto che anche questo è uno stereotipo, cioè il fatto che a sinistra si legga, a destra no, che a destra ci sia il macio, a sinistra l'intellettualino. Io sono alto 1,95, non mi sono mai sentito un macio, non ho fatto sport apposta per non essere catalogato secondo gli stereotipi estetici. Al contrario, a me sai che cosa succede? Che io, siccome faccio la scrittrice, mi ritrovo in conversazioni in cui si dà per scontato che ne so, che stavo a Piazza Navona con la Guzzanti e Di Pietro, mentre invece assolutamente non c'ero. Però ecco, però, questo forse c'ha veramente ragione Virzì. Non è tanto una questione di destra e sinistra, è più una questione di salotti romani, cioè di tribù romane che si confrontano e si conoscono, si annusano, anche questione di potere, cioè c'è la RAI, ci sta il Parlamento, e quindi è più una questione antropologica, etologica, di territori occupati. Che ormai la sua forma più degenerata, la fase ultima della sua evoluzione, ce l'ha nel Cafonal di Roberto D'Agostino con le foto di Pizzi, ormai questo è grande magna magna da Terrazza Romana con donne sfigurate ormai dal botulino, dalle operazioni plastiche e uomini ormai abituati al doppio, al triplo, al quadruplo salto mortale che non fanno altro che stare lì in fila per essere accettati da quello o da quell'altro salotto. Pecchioli di destra, Trombadori, Trombadori è meglio che non ne parliamo. Terracini invece di sinistra, come il tè, il riso integrale e la cucina macrobiotica. Il caffè invece di destra, anche il bagno con la vasca è di destra. La doccia invece è di sinistra. Il Portogallo è di sinistra, insieme alle isole greche, al Marocco e all'Afghanistan. Vienna, Venezia, Praga invece sono di destra. Visconti era di sinistra e Pasolini invece, prima di morire, a quanto mi si dice, era un irrazionale populista di destra. Poi, dopo morto, è diventato un compagno della Madonna, I maledetti vi amerò. Esiste una delle tante rappresentazioni, poi anche una nota canzone di Gaber, di queste categorie ormai stereotipate, di cosa appartenga alla destra, appartenga alla sinistra. Un film amaro, un film basato sulla depressione che ha vissuto la grande epopea del 68, e ormai sentito, quel momento è passato, ammesso sia mai esistito. Sandro, buongiorno. Sandro? Pronto, buongiorno. Sì, la sto pronto? Ascoltando, la sto ascoltando con attenzione. Non è uscito che è in linea. Sì. Volevo dirvi che nel 68, più o meno l'età in cui ero giovane e frequentavo questi ambienti, la cosa non è così semplice, perché ho vissuto una cosa strana. Anche perché il 68 è un fatto letterario in Italia, la canzone più ascoltata, l'abbiamo visto, era Azzurro di Celentano in quell'anno. Quindi... Certo. Però io vivevo, la mia famiglia viveva ai Parioli a Roma, che è un quartiere cosiddetto bene. E frequentavo gli ambienti di sinistra e gli stereotipi di quell'ambiente erano dei cliché fatti, abbigliamento, comportamenti, frequentazioni, eccetera. Però poi andavo a scuola invece una scuola di periferia, molto lontana, dove invece l'ambiente di sinistra aveva altri cliché e se io frequentavo quel posto, andavo a scuola senza cambiarmi, ero tacciato per pariolino e per fascista. Quindi era un qualcosa abbastanza sclerotico, non c'era proprio un cliché a sinistra, un cliché a destra. A Roma veramente dipendeva molto da dove si quindi sta. Quindi c'era un'appartenenza part-time, mezza giornata, sì. Lei doveva essere vestito in un certo modo e quando sì, poi frequentava gli amici di famiglia doveva cambiarsi. Per non doversi spiegare ogni volta. E poi c'è stata anche in questi ambienti una sorpresa, diciamo, nello scoprire che uno dei simboli della sinistra, Bertinotti, poi vestiva di cashmere, quindi cose molto costose, molto che uno avrebbe detto fanno parte invece di un ambiente più ricco e quindi più conservatore e più di destra. Sì, infatti sono stati quei segni esteriori che poi alla fine sono stati indicati anche come l'elemento più potente di una rappresentazione concreta di un'impossibilità di mantenersi storicamente vitali. La ringrazio Sandro, 800240024, il tema ormai è stato chiaro, appartenere alla destra o appartenere alla sinistra è anche una questione di aspetto esteriore, ma lo è ancora ai tempi nostri. Melog 2.0. L'erotismo è di sinistra, la pornografia è di destra, anche la penetrazione è di destra, mentre i preliminari invece sono di sinistra. E tranne che per il pompino, che invece è di destra. La norma è di destra, la follia è di sinistra. L'eterosessualità è di destra. L'omosessualità invece ha un profondo valore trasgressivo, quindi è di sinistra. Marocchino, afgano, erba e fungai varia sono di sinistra, mentre anfetamine, ero e cocaloide, beh, sono robe da fascisti, eh? In quanto a Nietzsche è stato rivalutato, cioè adesso è di sinistra. Marx è di destra. Orco, due compagni, non facciamo casino, eh? Bisaglia è di destra. Basaglia di sinistra. 800 24 0024, stiamo cercando di ridefinire, ammesso che esistano, delle categorie estetiche di appartenenza ideologica. Essere di destra, essere di sinistra, comporta ancora oggi il vestirsi in una certa maniera, il frequentare certi posti, il parlare in una certa maniera, l'essere comunque è definibile esteriormente, ormai è una condizione interiore così macerata, così sofferta, così controversa, che non più trasparire poi in un comportamento esteriore. Il pubblico su Facebook sta reagendo naturalmente sull'onda dei luoghi comuni già elencati da Bucci, maledetti via Merò. Con gli occhi si capisce dalla trasparenza, mi dice Silvia, dello sguardo si capisce, col naso non so, se ti riferisci all'odore non so, ma comunque anche il sudore è diverso. Questa nostra ascoltatrice riconosce all'olfatto le persone di destra e le persone di sinistra. Valeria dice, chiamiamo in causa l'ombroso dunque, vai problemi, quelli di sinistra sono belli, hanno l'aria intelligente, gli altri le donne belle perché rifatte e gli uomini bassi e brutti con la panza. Andando avanti ancora, poi dunque, bisognerebbe chiedere a Giorgio Gaber, qualcun altro dice che la canzone di Giorgio Gaber è segnata un punto di discrimine, avendo elencato in maniera così precisa e così incontrovertibile tutte le categorie di appartenenza, nessuno più se l'è sentita di ribadire quel luogo comune. Ricordo gli ospiti in studio, abbiamo Filippo Rossi, direttore di FF Web Magazine, rivista della Fondazione Fare Futuro, Chiara Gamberale, autrice del libro Una passione sinistra, uscito questa mattina in libreria, che racconta una storia torbida e adulterina tra una signora di sinistra e un signore di destra, amici di famiglia, ma copulano, si accoppiano e tradiscono alla barba dei rispettivi coniugi, con dei problemi che poi chiariremo. Abbiamo però adesso al telefono Riccardo Barenghi. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti voi. Allora, Riccardo Barenghi, ex direttore del Manifesto, attualmente mio collega, editorialista della Stampa, Iena per chi lo conosce sotto questo pseudonimo, ha appena scritto un libro, Eutanasia della sinistra, edito dalla Fazzi. Riccardo, l'appartenenza ideologica, i simboli esteriori dell'appartenenza ideologica, in questa eutanasia della sinistra può in qualche maniera aver avuto una ragione l'abbandono della connotazione esteriore? Un discorso di pura estetica, fermiamoci all'aspetto estetico. Beh, cavolo che domanda. Mi pare che diciamo ancora si possono vedere dei segnali estetici di appartenenza alla destra o alla sinistra, ma sempre meno. Sempre meno. Beh, sai, Fini con la cravatta rosa è un po' difficile definirlo secondo i canoni tradizionali come persona di centrodestra, diciamo. Beh, ma Fini, io gli ho mandato un libro con una dedica che diceva al fascista più di sinistra che conosca. Quindi, insomma, Fini è un personaggio un po' molto evoluto o involuto a seconda dei punti di vista e dei punti di partenza negli ultimi anni. Quindi è un uomo di destra sicuramente, ma con diversi aspetti che possono ricordare questioni di sinistra, quindi non è. No, io dico che a destra i fattori estetici si vedono ancora, quelli che non si vedono più sono quelli a sinistra, ma non si vedono quelli estetici perché non ci sono gli altri. Perché appunto avendo scritto tipo il sentito dell'eutanasia della sinistra. Ma secondo te allora, Riccardo, negli anni felici o infelici, dipende dal punto di vista in cui la connotazione era così evidente, la polarizzazione così facilmente identificabile dal taglio dei capelli, dai quartieri che si frequentavano, dalle librerie che venivano frequentate appunto, dai film che si vedevano, dagli ambienti, dalle letture, era facilissimo definirli, perché c'era una appartenenza sentita a livello interiore, quindi trapelava anche nell'aspetto esteriore. Quindi la perdita di anima ha determinato l'indifferenziazione esteriore, estetica, diciamo. Sì, penso assolutamente così. Poi io, diciamo, sulla omologazione estetica di una parte e dell'altra non è che mi sia mai piaciuta, perché poi appunto dava l'idea di gente molto inquadrata che non si contaminava mai, non sentiva mai il bisogno di sentire l'opinione dell'altro, di che cosa pensasse, anche di litigarci, no? Si stava, appunto, come dicevi tu, nei propri quartieri, nelle proprie librerie, nei propri circoli, nelle proprie cose. Quindi quello a me, insomma, tutti con l'Eskimo da una parte, tutti con non so che cosa dall'altra, tutti con i Raiban da una parte, ecco, non è che mi piacesse. Dopodiché ci stavo dentro, ero un ragazzo e come tutti i ragazzi a 18-20 anni uno si trova da una parte per ragioni culturali, di vita, familiari, eccetera, eccetera, e quindi da una parte e diciamo non si mischia con quegli altri. Ma una cosa però sarebbe stata, sarebbe giusto, insomma, mischiarci, confrontarsi, un'altra è scomparire. A me a sinistra, ma non per la che dicevo prima, per il fattore estetico, ma per gli altri, le cose di sostanza. Sì, quello è chiaro, naturalmente. Però io insisto solo un attimo con te su questa perdita di senso estetico, che è un po' il tema di questa mattina. Si è cominciato a sentire meno il bisogno di connotarsi esteticamente quando le ideologie hanno cominciato a entrare in collisione piacevole tra loro, quando è cominciata l'osmosi, quando è cominciato il mix, quando qualcuno ha sentito il bisogno di dire di qualcosa di sinistra o di qualcosa di destra. Allora a quel punto vestiamoci uguali, perché è inutile farsi vedere per strada che siamo così diversi, quando in realtà, in fondo, quello che viene chiamato dialogo è stata un po' una perdita di identità. Esattamente, diciamo che il fattore estetico si è perso quando non tanto è cominciato più che l'osmosi, cioè un'osmosi a senso unico, cioè che la sinistra italiana si è sempre più destrizzata, possiamo dire così, tant'è che appunto la famosa frase di qualcosa di sinistra in sera chiudeva tutto, no? E allora sempre più simili agli ex avversari, sempre meno connotabili su tutti i piani, e a quel punto anche se vuoi sul piano estetico. Dopodiché, sai, sul piano estetico io penso la differenza bisognerebbe farla tra chi si veste bene, ma non bene nel senso giacca e cravatta, bene, cioè si veste con un certo stile, con un certo gusto, e chi si veste male. Poi se questo significa di sinistra o di destra non lo so, però penso che la differenza vada fatta su questo piano, sul piano estetico, poi sugli altri piani. Filippo Rossi vuole farti una domanda, Riccardo. No, non una domanda, confermare, mi faceva pensare Barbarenghi il fatto che l'estetica applicata alla politica diventa sempre divisa. E quindi quando esistono delle divise esiste una politica militarizzata e quindi di eserciti che si confrontano. Quando, nel momento in cui non è più così, per osmosi, mix e quant'altro, non entriamo nei contenuti, rimaniamo nell'estetica, è ovvio che questi eserciti si confondono e diventa più una guerra di posizione, una guerra combattuta quartiere per quartiere in cui tutti sono vestiti un po' uguali. Sentiamo Luigi. Luigi, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io oggi come oggi mi risulta difficile fare una differenza ideologica perché non esiste più. Lei dice una volta si era dal giornale che usciva dalla tasca del cappotto. Sì, dal giornale, forse si portava l'unità in tasca, lavandolo. Anche il manifesto, come ricorderà Barenghi, era un segno distintivo. Certo, ma per carità. C'erano persone che uscivano la mattina col giornale piegato in tasca e la sera tornavano con la testata sempre in vista. Anche nei tram, negli automezzi, si portava, si leggeva il giornale, si capiva già chi era di sinistra. Diciamo che oggi la Free Press ha cambiato anche questa possibilità, annullato questa possibilità di identificazione. Mi ricordo quando militavo nel Partito Socialista in centro a Milano, portai mia figlia sul passeggino, che allora aveva 2 anni, con un cappottino rosso, e fui aggredito dai fascisti. Perché aveva il cappotto rosso la bambina? Perché la bambina aveva un cappotto rosso. Poi si sono fermati perché hanno visto la bambina, se no non si fermavano. Beh, vedi, San Babilo ore 20, un delitto inutile, fu uno dei film che maggiormente segnò questa terribile guerra tra bande che avveniva tra proletari e giovani per bene, equamente distribuiti da entrambe le parti in quel quartiere milanese. Dico questo perché molti ci accusano di fare trasmissione romanocentrica. Chiara Gamberale, gli eroi del tuo romanzo hanno delle connotazioni estetiche che tu descrivi che danno a loro un'appartenenza, a parte poi sensi di colpa che verranno acuiti dal fatto di aver passato un duplice ordine di valori per la donna che cede, per la prima volta adultera e per la prima volta adultera con un nemico del marito? Sì, io sono molto d'accordo con quello che diceva Baringhi poco fa, e invece quello che ha detto l'ascoltatore è assolutamente vero, però io penso che invece all'oggi sia rimasta solo l'ideologia, nel senso però più bieco del termine, non in quello insomma che apre grandi orizzonti di fronte a noi, perché i due protagonisti di Una passione sinistra, Nina da una parte e Giulio dall'altra, sono forse carenti per preconcetti, ideologia, però molto, hanno una personalità più forte delle persone invece che stanno, che sono il loro ambiente. Non lo sanno di avercela così forte, invece lo scoprono perché comunque cedono a questa attrazione reciproca. A sinistra perché non era nei piani, perché stando all'ambiente in cui è cresciuto Giulio, l'avvocato Giulio Faleni, lui dovrebbe insomma trovare una ragazza giovane, carina, sposarla, fare dei figli, e invece stando all'ambiente insomma da cui proviene Nina dovrebbe stare tutto il giorno con questi amici intellettuali del marito, tutti gli ex con gli ex, no, insomma, tanto non esiste stare insieme, quindi non esiste, sì, tutti amici. Non esiste lasciarsi, il sesso è sciatto, fatto così un po' più casualmente perché è meglio parlare delle cose, e invece loro, certo, il senso di colpa l'uomo proprio non ce l'ha, perché comunque ha una formazione mentale della serie. Infatti lui mi sembra che sia un amatore seriale. Sì, per lui ce l'ha. È un attacco al suo Winchester. Sì, ma poi se ti tradisco e tu non lo sai, non ti faccio del male. Queste, no? Sì, è una teoria che ha dei fondamenti, diciamo. Certo, anche molto, sì, molto maschile come punto di vista. Si tradisce sempre con una persona percentualmente di sesso opposto, quindi è condivisa questa teoria, secondo me. E invece lei invece ha il senso di colpa, perché lei comunque insomma il loro amore è un amore che comincia quando sono bambini, cresce con loro, insomma, ecco, è più figlio anche lì di grandi ideali che di fatti, mentre invece forse l'amore di Giulio Faleni e sua moglie è più figlio di comprare la casa, fare le cose insieme. Ecco, io quando ho scritto questo libro mi sono documentata da una psicologa della coppia, ho detto che differenza c'è fra le due coppie, e lei mi ha detto questa cosa molto interessante. Ha detto: allora, le coppie orientate politicamente a destra sono più concrete, parlano più di fatti, mentre invece quelle di sinistra perdono più tempo attorno a teorie e ideali. Quello che mi preoccupa è che entrambe le appartenenze, sia destra che di sinistra, poi devono andare dalla psicologa della coppia. Io sono entrato questa mattina di destra, esco di sinistra, quindi... Riccardo Baringhi, una battuta, stiamo per chiudere, per dare la notizia alla borsa. Per dare la linea alla borsa, Riccardo, su quello che abbiamo detto. Alla borsa valori? Sì. Beh, io adesso sono per strada e ho visto diversa gente vestita in modo molto... molto diverso tra loro, e assolutamente non saprei se quello che sembrava vestito di sinistra sia di sinistra oppure di destra e viceversa, quindi che ti devo dire, ormai... Quindi conferma quello che questa mattina stiamo cercando insieme di definire come è norma della nostra contemporaneità: non esiste più una differenza esteriore, speriamo che prima o poi si riacquisti una differenza, perlomeno dal punto di vista dell'appartenenza ideologica, anche se non definita. Grazie Riccardo Baringhi. Melog 2.0. Tu non sei latina, eh? No, sono metà francese. Anche tu ti occupi di politica? Oh, guarda, io te lo dico subito, sto dall'altra parte, però. Sarebbe a dire? Sarebbe a dire, secondo te, che sono fascista? Sei fascista? Sono fascista, sì. Voi comunisti, per pensare alla supremazia che ci avete. Vabbè, lasciamo stare, guarda. Piuttosto che tu dici che sei francese, fammi sentire qualcosa. Vous êtes le magnifique podestà, vous avez droit de vie et de mort, toute puissance, toute liberté. Francese proprio, eh? Te? Fascista proprio, eh? Fascista sì, me l'hai fatto. Bravo. Vedi come siete fatti voi? Perché non vi immaginate nemmeno come è fatta una sezione nostra, non ci siete mai stati. Che voi pensate? Che voi si fanno i dibattiti? Vabbè, no. E poi io già ho capito che te andava a finire a litigare. Mi sa. 800240024, questo era Mio fratello un figlio unico, il film di Lucchetti ispirato al libro di Antonio Pennacchi, Il fascio comunista, poi film che Pennacchi non ha poi riconosciuto così aderente al suo libro, in cui la storia di due fratelli di Latina, città fascia per eccellenza, uno mantiene il genius loci e quindi resta fascio, e l'altro invece, come aveva girato il mondo, diventa di sinistra, e poi fra di loro ci sarà una donna. Ho in studio per parlarne Filippo Rossi, direttore di FF Web Magazine della Fondazione Fare Futuro, e Chiara Gamberale, con il suo ultimo libro Una passione sinistra, Bompiani. E al telefono abbiamo Germana, finalmente una donna. Germana, buongiorno. Buongiorno, salve, è molto interessante quello che state dicendo, perché proprio ieri sera ne parlavo con degli amici ancora su questa differenza estetica, l'abito. Lei come è vestita, Germana? Com'è vestita in questo momento, Giovanna? In questo momento, se qualcuno mi dovesse vedere, penso di destra, ma io sono una donna di sinistra. Da cosa si vede che lei è vestita di destra? Ma non lo so, io penso che sia una certa... Forse una... Descriva gli accessori così capiamo, almeno finalmente diamo corpo a queste definizioni. Ho qualche marca addosso, ecco. Ah, ecco, è firmata. Ecco, che io reputo, non lo so, più di qualità nel senso di, in questo senso, cioè preferisco avere poche cose. E secondo lei a donna di sinistra non metterebbe mai qualcosa di firmato? È questo, intendo dire, però ieri mi è successo proprio un fatto molto interessante, sono entrata, lo dicevo alla redazione, in un negozio di Equo Solidale per comprare qualche cosa e anche per dare il mio apporto volontario nel caso ce ne fosse stato bisogno. E questo è di sinistra? Questo di sinistra e la ragazza... Cioè l'acquisto è di destra e il volontariato è di sinistra? Beh, questo non lo so, però io parlavo proprio dell'abito, perché la ragazza che mi ha accolto era visibilmente di sinistra, intendo dire... Da cosa lo vedeva? Questo dicevo io all'amico con cui ero lì al negozio, dico perché c'è bisogno di sembrare addirittura quasi... non attenti all'abito nel senso di quasi trasandati, in questo senso lo dico, però poi mi dico anche che ognuno veste a modo proprio, però ancora devo dire che tre quarti l'abito fa il monaco. La cosa che invece dicevo in redazione, alla redazione, che mi preoccupa un po' di più, devo essere sincera, è la sostanza, cioè l'altra mattina ho sentito una trasmissione su Rai 3 molto interessante di mattina e c'era Rita Armeni e la Mussolini che dicevano le stesse identiche cose. Allora questo mi fa riflettere un pochino di... Vestono anche uguali più o meno l'Armenia e la Mussolini. Ecco, questo intendo dire, cioè mi preoccupa di più un po' quello, cioè non capire attraverso le parole chi è di destra e chi è di sinistra, attraverso, non dico la sostanza perché questo è un problema che ha già detto Barenghi. Filippo, ma dicevano cose condivisibili o no? Come? L'Armenia e la Mussolini dicevano cose che lei condivideva o no? Sì, condivideva la condizione, allora è della positivo. Donna, si parlava della condizione della donna, per carità, però siccome era una trasmissione molto lunga mi sono anche chiesta come è possibile che nell'arco di un tempo, anche se è un tema su cui la Mussolini si è sempre battuta. Vabbè, lei è abituata a vedere la Mussolini che fa pugni nei salotti televisivi e non si trova a suo agio se la vede una coincidenza idee con Ritanna Armeni. Eugenio, buongiorno. Buongiorno, io chiamo dall'Aquila, quindi una piccola cittadina, per quel poco di esperienza che posso avere, ho 20 anni e penso che le distinzioni destra e sinistra ormai tra i giovani non esistono più molto marcate come esistevano magari una volta, perché comunque la politica non viene sentita molto addosso, viene di più sentita per esempio la musica che uno ascolta, quindi uno la distinzione può essere fatta per esempio su chi ascolta musica dance e chi ascolta musica punk, per esempio, quindi sulla musica in generale. Non... Quindi le segnature estetiche delle appartenenze giovanili sono su categorie musicali e non su categorie politiche, questo vuol dire lei? Sì, io penso anche purtroppo, perché non si fa più attenzione a quello che è un contenuto, ma a quello soltanto che è l'apparenza. Sì, guardi... Non è che i contenuti poi stessero tanto a cuore anche le generazioni che stiamo definendo, che erano facilmente identificabili. Molte volte la necessità di avere un'apparenza assorbiva tutta la voglia di contenuto. Chiara, la protagonista del tuo libro, colei che cede alla lussura per l'uomo di destra, pur appartenendo al pensiero di sinistra, ha un negozio di commercio equo solidale. Come diceva poco fa l'ascoltatrice. Io volevo dire all'ultimo ascoltatore dall'Aquila, che forse ci riporta anche, no, a riflettere se questo sia un problema sentito più nelle metropoli che in provincia, che però poi anche la musica può essere una microcategoria all'interno di macrocategorie politiche o viceversa. Però ecco, siccome stiamo, mi pare che sono, sì, mancano pochi minuti, con Filippo ci guardavamo e mentre la signora raccontava, sì, che ieri la Mussolini e la Ritanna Armeni la pensavano uguale, ecco, non è detto che sia un male, anzi, secondo me è molto peggio quando per forza bisogna trovare anche in malafede un motivo per dire no, non ci sto, e questo secondo me che ci ha portato alla situazione drammatica di differenza in cui siamo. A prescindere, per cui ci deve essere per forza un buono e un cattivo, un solidale e uno che invece se ne frega. Io faccio fare l'amore a questi due personaggi proprio perché per dimostrare che invece, tutto sommato, lui all'inizio le donne che parlano proprio non gli piacciono nemmeno come in teoria, e poi invece si riscopre a confidarsi con lei. Lei di conseguenza pensa che il sesso nella sua vita non sia importante e scopre che invece hai sbagliato. Cioè, la vita e la politica è molto più complessa di una semplificazione bipolare destra e sinistra. Sì, però non ci illudiamo, per circa 20 anni della nostra storia patria l'aspetto esteriore ha definito drasticamente l'appartenenza. Ma non è stato, sono stati anche anni brutti, però. Anni pessimi, nel senso che non è che bisogna avere nostalgia, sentimento. Nessuna di nostalgia, ma noi stiamo semplicemente facendo un'operazione di analisi storica. Perché ci scordiamo che in quegli anni i ragazzi si sono anche scannati fra di loro. Assolutamente. Quindi, ecco. Sennò, poi diciamo che la segnatura esteriore all'appartenenza poteva costare la vita. Questo va detto, sennò saremmo pochi a non dirlo. E questo forse c'ha ragione il mio amico Gaetano Cappelli, scrittore, che dice: forse i più rivoluzionari di quegli anni erano i ragazzi che se ne andavano al cinema, andavano in discoteca. Forse l'evento più grande del 1977 è stata l'uscita di Guerre Stellari e non le manifestazioni in piazza. No, cioè, Caio, buongiorno. Chiudiamo con Caio, l'ultimo ascoltatore. Sì, buongiorno. Sì, Caio. Buongiorno a lei. Concordo pienamente con l'analisi fatta da lei, dal conduttore praticamente, che dico, io vengo dagli anni da 68 e nel 68... Cioè, questo testimonia che ormai... Esatto. Siamo sempre tutti d'accordo e quindi non esiste più questa ricontrazione. Nel 68 io che sono di sinistra, diciamo adesso non più, però io che ero di sinistra e sono tutto di sinistra. Io nel 68 pensavo con l'Eschimo, che mi regalavano il motorino l'anno dopo. Con il manifesto, con l'unità in tasca e via discorrendo. Diciamo quelli, i destrossi, che li chiamavamo i destrossi, non avevano il bomberino di adesso, però erano equipaggiati in un altro sistema. Il taglio di capelli, il giubbottino nero. Sì, lei però guardi, secondo me, mi scusi, mi permetto, dal mio modesto osservatorio, slitta 10 anni avanti quello che è accaduto, almeno 10 anni dopo, perché il giubbottino nero appartiene agli anni 70, a metà degli anni 70. Nel 68 ancora vestivano tutti uguali, erano dei bravi ragazzi con la cravatta e la giacchetta, sia che fossero di destra o di sinistra. Come vedete, ritornare molte volte a ristabilire le categorie esatte quando la nostra memoria si sovrappone è un esercizio senz'altro salutare. Grazie Chiara Gamberale, auguri per la tua passione sinistra, grazie Filippo Rossi. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.